incontro strano è quello che tutti sognano. Un maglione rosso, una treccia bionda, appoggiati a un finestrino di un treno che va lontano, e due occhi azzurri pieni di un qualcosa che solo tu sai cos'è. È una sintonia che si crea nell'aria senza parlare, e pensi che bello sarebbe stare con lei, insieme a lei, cantando le stesse canzoni, guardando gli stessi treni nelle stesse stazioni, mangiare lo stesso panino e credere che tutto sia giusto, che il mondo sia onesto. Tutto questo e la fantasia si inventa un mondo che è fatto apposta per te, e la tua allegria si estranea e d'improvviso sei come non sei stato mai. Lei ti guarda e sorride, tu ti lasci andare, corri verso lei. Lei si sente felice, non sa cosa fare, aspetta te. E poi non sai cosa dire, ma è meglio non parlare. Gli occhi si dicono cose incredibili, i capelli si intrecciano per non farla scappare, le labbra combaciano appena si sfiorano, in fondo un brivido fino al centro del cuore. Nel sole non sai più cosa dire, amico mio, stai sbagliando, sai, a casa è una donna che pensa a te, che piange ed è triste se tu non ci sei, la tua donna è lei, che ti prende per mano, non ti lascia mai andare, e dimostra ogni giorno quanto è grande il suo amore, quando soffre fa piano per non farti capire che le stai facendo del male, che sta per morire, che ti vuole addolcire. Sì, d'accordo, hai ragione, ho sbagliato, ho capito, sarò sempre con lei, non la lascerò mai. Lei che mi vuole bene, che mi fa un po' arrabbiare, è importante per me. Un incontro strano è quello che è importante per me. Un incontro strano è quello che è importante per me. Un incontro strano è quello che è importante per me.